allora Crucelli, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le sigle non se lo filano eccetera, però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene, allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cosa, aspetta, come si chiama? La programma Radio 24? È una trasmissione bellissima, con tutte le cazzate che dicono, però è piacevole, guardi, è una cosa piacevole. Di solito quando mi dicono è una trasmissione piacevole mi incazzo come una belva. Se uno mi dice questa è una trasmissione piacevole mi arrabbio. Prego. Allora, ti pare normale, David, che Luca Bizzarri, iniziamo da una cosa molto piccola, Luca Bizzarri su Twitter, a proposito di Virna Lisi, della morte di Virna Lisi, ha scritto, adesso non lo dico perché amico mio, anche quando un mio amico dice una cazzata, secondo me non ho problemi a dirlo, però ha scritto una cosa, addio a una figa spettacolare, questo è stato il suo commento, addio a una figa spettacolare. Si è scatenato un putiferio sul web, ovviamente. Voi che siete lì col camion, col taxi, che non avete tutto il tempo a disposizione per compulsare Twitter o il computer perché state lavorando, magari ve ne fottete di queste cose. Però il signor Bizzarri, ricordate, sapete chi è il signor Bizzarri, ha scritto addio a una figa spettacolare, perché effettivamente era così. Ora, oggi in Italia uno non si può nemmeno permettere di dire che Virna Lisi era una figa spettacolare, che è la verità, la pura verità. Cioè, una bellissima donna, uno poi lo scrive su Twitter, lo scrivi in un modo spettacolare, ecco, appunto. Cioè, lo scrivi in un modo un po', no? Sì, beh, sai. Ma perché adesso ti stupisci anche tu, per caso? Beh, sai. Addio una figa spettacolare. No, dillo pure. Non voglio farti il moralista d'accatto nell'ultima puntata dell'anno, No, ma fallo pure. Cioè, però lo devo fare, amico mio. No, e me perché non si può. L'ho letto anch'io oggi, ho visto i l'hanno linciato. C'era ieri poi, sì. L'hanno linciato, no, ma anche oggi c'era la coda di quella roba con Cesare, allora? Che lo ha linciato. Però sai, siccome lui è un attore simpatico e anche bravo, no? Di fronte alla morte di questa qui, che vuole essere anche ricordata non soltanto come una donna, ma che ne sai che lo vuole, so perché come, ho letto le che ne sai come vuole essere ricordata, ma che vuol dire ognuno la ricorda come vuole? No, ma ho letto le interviste, ma se uno scrive addio a una figa spettacolare, addio a una figa spettacolare, allora qual è il punto? Non capisco, qual è? Metti in gioco che qualcuno si può offendere, dice, ma no, ma come? Ma qualcuno, la chi? In questo modo? Chi si perché può offendere? Chi? Qualcuno può ritenerlo irrispettoso, forse. No, ma io voglio capire come la pensi tu, non qualcuno. Io non può. L'avrei scritto. Io non l'avrei scritto. Ma tu hai paura pure di scrivere. No, non l'avrei anche scritto della tua perché ombra hai paura, per cui figuriamoci. No, io non l'avrei. Ma figlio, no, paura di che cosa? Per dire una donna, un'attrice bellissima. Ognuna, insomma, non è per nulla offensivo. Addio una figa spettacolare. Una cosa molto bella, che nessuno scrive, originale. Addio una figa spettacolare. È quello che uno pensa, cazzo. Uno pensa, quella era una. Sì, ma non sempre si può dire tutto quello che si pensa, no? Se metterlo in pubblico. Magari un conto è una conversazione tra amici, io e te al telefono che ci parliamo, e hai visto, è morta una figa. Ma proprio tu lo dici, proprio tu lo dici. Cioè, qui si mette in campo tutto in questa trasmissione. Adesso uno adesso ti stupisci del fatto che. Ora stiamo ragionando, stiamo discutendo su quello che ognuno scrive quello amico che vuole. Io non ci ho nemmeno pensato perché non mi interessava scrivere nulla sulla morte di Virna Lisi. Quello ha scritto addio una figa spettacolare, viene linciato, trovo ridicoli. Linciato, è la rete, ecco, non è che viene linciato. Intanto Salvini presenta il nuovo simbolo della Lega per il centro-sud o per il sud, non lo so, noi con Salvini. La cosa più incredibile è che Salvini dice che è imbarazzato a presentare il simbolo con il suo nome. Se sei imbarazzato non lo presentare allora, cioè, sì, ma qual è il punto? Nessuno ti ha obbligato a farlo, diciamo. Come sono imbarazzato? Dovresti essere contento, orgoglioso e dice, beh, cazzo, sono pesante ormai dal punto di vista elettorale. Ecco, c'è da dire questo, che però chi ha fatto questa scelta? Casini e molti altri che hanno messo, Di Pietro, che hanno messo, non hanno fatto poi una bella fine, se ci pensi. Sì, anche in groia, nome, anche in groia. Esattamente, anche in groia. Sì, esattamente. Sono anche in imbarazzo, vi dirò, a presentare il simbolo, perché io credo nella squadra, nel gruppo e nella comunità, non nel singolo. Le megalomanie le lascerei volentieri a Renzi, perché non portano da nessuna parte. Allora, ragazzi, qui facciamo a capirci, no? Facciamo a intenderci, facciamo a capirci. Amico Salvini, senza... il carisma del leader, senza Salvini che a un certo punto ha scoperto di essere bravo, di avere un certo appeal, eccetera, dove andrebbe la Lega? Dai, su, parliamoci chiaro. Non è la uno, Lega è Salvini. Non è che la uno Lega si può prendere per il culo, no? Altrimenti c'era Bossi con tutto quello che sappiamo, no? Con i diamanti, con Belsito, eccetera. Questa, a questo era ridotta la Lega prima di te. Dai, su, non prendere in giro la gente. È chiaro che è così. Poi dice: non ho mai attaccato i cittadini del sud. Pure questo. Beh, questo no. Questo non credo. Questo non credo. Questo non credo. Noi non abbiamo mai attaccato i cittadini del sud, evidentemente. Abbiamo sempre contestato la cattiva politica. Roma ladrona è quella che sta emergendo in questi giorni. Adesso è inutile rimettere in campo. Senti che puzza. Cantano anche i cani. Il famoso coro. Esatto, il famoso coro di Salvini sui napoletani. È inutile farlo risentire. Forse facciamo risentire un po' all'inizio, perché c'è il coro, ci sono una serie di frasi dette. Qui c'è l'archivio della Zanzara che canta, come sai, no? L'archivio che canta. È più stanno arrivando i napoletani. Poi ne dice una giusta, però, che il Quirinale potrebbe essere abolito. Questo è intelligente. Anche secondo me a un certo punto potrebbe essere abolito, oppure diventare una cosa ornamentale. Invece in Italia non si capisce una mazza. Chi comanda di più? Il capo del governo, il presidente della Repubblica, il solito pasticcio in cui c'è una specie di bilanciamento di poteri in cui non si capisce una sega di chi prende le vere decisioni. Invece una battuta per quanto riguarda il Quirinale, questa nuova partita che si aprirà tra pochissimo. Sa che non mi appassiona, a me basta che non arrivino dei rottami come Prodi, come Amato, come quella gente lì, poi scelgano un po' chi vogliono scegliere, ma spero che non tengano in ostaggio per settimane il Parlamento, perché l'emergenza in Italia è la disoccupazione e l'immigrazione, non è il Quirinale. Forse per me potrebbe anche essere eliminata come carica, quindi... Abbiamo già un ospite collegato, però io mi sono rotto le scatole di quello degli insulti che ricevo e soprattutto, non tanto degli insulti perché sono abituato, soprattutto del fatto che ci danno dei razzisti, semplicemente perché abbiamo ospitato prima un intervento di Leopoldo Mastelloni. Ci sono un sacco di siti a Napoli scatenati contro la Zanzara. Parenzo, la smetti di toccare il telefono oppure arrivo giù e con un mitra. È pieno di siti di Napoli in cui si dice la Zanzara, il covo del razzismo. Per che cosa? Prima per una intervista a Mastelloni in cui Mastelloni col cuore in mano parlava male di Napoli. O diceva delle cose, poi si è pentito come al solito, la solita roba. Poi per un intervento di Angelo, che è un camionista, che è uno che vive da un'altra parte ma che è napoletano, lo sentirete anche dall'accento, il quale ha detto delle cose molto forti che noi abbiamo contestato, delle cose anche folli, e ci accusano noi di essere razzisti. Mi minacciano, mi hanno chiamato col numero anonimo dicendomelo di tutti i colori, 2-3 telefonate oggi, vi rendete conto o no? Io penso che la migliore cosa è mettere i napoletani dentro ai forni crematori. No, vabbè, dai, su, eccolo, Angelo, su, ma che vuol dire? Qua. Ecco l'idiota. Ma dai, ma non c'entra niente questo. Uno, 2027, uno può criticare allora, quello che vuole, ma i napoletani dentro i forni crematori. È arrivato, dai, l'idiota, Angelo. È arrivato. Ma tu sei anche napoletano, vergognati. Non no, io mi vergogno di essere napoletano, forse non ci siamo capiti. Ma si deve vergognare per quello che ha detto. Mi vergogno di essere napoletano. Angelo, che significa? Che bisognerebbe cancellare Napoli? Cancellare? Sì, al più presto possibile. Ma come? In che modo? Tabula rasa, il Vesuvio? In che modo? Non ho capito, ma è una follia, Angelo, una follia. Vabbè, siamo in Italia, posso dire la mia? Sì, ma... c'è qualche legge che me lo proibisce di dirlo? Sta copiando quel tizio là di qualche settimana fa che ha parlato così dei Rom, caro Angelo, ma nessuno ma sono peggio dei Rom. Cioè i napoletani peggio dei Rom. Vabbè, peggio dei Rom, peggio. Delirio, dai, delirio. Ma scusi, ma adesso lei sta parlando delirio, sul serio, dai, cioè è veramente convinto di questa roba? No, io sono convinto di quello che dico, per l'amor del cielo. Ma non è io che è una razza. Io giro l'Italia, faccio il trasportatore. Sì. Dove passano i napoletani c'è la merda per terra. Allora, a tutti quelli che mi chiamano al telefono e mi minacciano, deve essere chiara questa cosa qui, deve essere... io non ho detto una parola e sono totalmente in disaccordo, ma mi pare talmente scontato che non c'è bisogno di dirlo, con quello che ha detto questo signore. Ma totalmente. Che ti minaccia? Ma è della gente, mi chiamano, non lo so chi ha dato il mio numero, mi hanno... anche adesso sta squillando, anche di... adesso sta squillando il telefono, mi arrivano telefonate di gente, sono Ciro, affanculo, pezzo di merda, ti giuro, oggi tre, che vuoi che ti dica? Ho riferito tutto a chi di dovere, il telefono è controllato da chi di dovere, punto e basta. Ma scusami, non ho capito, chiamano il tuo numero privato? Privato, ragazzi, privato, numero privato. Vabbè, è una vergogna questa. Vai, pazzesco. Pasquale Squitieri, buonasera. Ciao Giuseppe. Come va, come va? Va male, va male. Che succede? Ma hai sentito? Ma vediamo, vedi questo signore che ha chiamato, che poi non è un signore, è un farabutto. Sì. Entra nella filosofia, nella psicologia moderna. Un uomo è il suo linguaggio. Uno che parla come lui vuol dire che c'ha in mente i campi di sterminio. Sì. Vuol dire che la sua cultura si è fermata lì. Sì. Io vorrei fare con te una passeggiata, posso? Come no, facciamola. Allora, prendiamo l'autostrada Roma-Napoli, no? Sì. E arriviamo a Napoli, a Piazza Carlo III. Sì. E vediamo un edificio stupendo, la Reggia. Sì. E ci ha costruito secondo i criteri di una Reggia. Sai cos'è? Cos'è? È l'albergo dei poveri, costruito nel 1790. Lì erano ospitati e lo sono ancora i poveri. Andiamo avanti, scendiamo un po' ancora verso Via Foria e troviamo il primo orto botanico d'Europa, 1802. È un paradiso di piante, di fiori, di cose incredibili. Vabbè, però... Scendiamo ancora, sì, e troviamo il Museo Nazionale. Sì. Scendiamo ancora e troviamo il Museo Filangieri. Andiamo ma questo ancora, nessuno lo nega. E troviamo il San Carlo, la prima opera lirica del mondo. Ma cosa vuoi dire allora a questo qua che ha chiamato? Che noi veniamo da lì. E cosa vuoi dire? Noi veniamo dalla filosofia, noi veniamo dalla poesia, noi veniamo dalla letteratura, noi veniamo dalla cultura più importante d'accordo del mondo. Ma cosa vuoi dire a questo signore che ha chiamato? Noi veniamo dalla musica. Questo voglio dire. Al signore che ha chiamato che cosa vuoi dire? A questo voglio dire, a questo stronzo, che noi siamo quello. È chiaro che in quel mondo puoi trovare anche la plebe. Per carità, questo non vuol dire che siamo sani, vuol dire che nasciamo come un grande popolo. E poi questo grande popolo, una volta colonizzato dalla merda del nord, perché non esiste l'Italia, Giuseppe, esiste la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, la Campania, Milano, scusi, Ma scusi, no, però, maestro, però non è che si può dire, non è che può dire che tutti i mali derivano dalla colonizzazione della merda del nord. Pasquale, dai. No, io non ho detto che tutti i mali. Non ho detto che tutti i mali. Vabbè, quello hai detto. Ti spiego. Aspetta che ho il traffico, torno subito, aspetta. Traffico veicolare. sulla trasmissione, sempre la migliore. E ancora a casa. Allora, con noi regista Pasquale Squitieri. Paolo Pasquale, voglio chiederti subito una cosa, ma al di là dell'intervento di questo ascoltatore, delle minacce che ricevo, eccetera, eccetera. No, ma lasciamo perdere questo, che è una follia, l'abbiamo detto, e non capisco perché minacciano me come se fossi, come dire, lo stimolatore. Qui ognuno può dire quello che vuole, noi contestiamo ed è finita lì. Ma certo. Voglio capire un'altra cosa, ma Mastelloni ha fatto un discorso serio in realtà, Leopoldo Mastelloni, ha detto che a Napoli non si può vivere perché è un percorso di guerra, lui preferisce vivere a Roma, eccetera eccetera. Hai letto sicuramente, ma sei d'accordo con lui o no? Guarda, Mastelloni è mio fratello, io lo amo da 50 anni, ho lavorato con lui, ha fatto due film con me, cioè Leopoldo è la migliore espressione che l'arte napoletana del teatro, della canzone possa avere. Però? Come tutti gli artisti, è un aggressivo, è un impotente. Come impotente? Vorrebbe che Napoli si adattasse a lui e non lui a Napoli. Lui all'inizio si è adattato a Napoli, lui ha portato in teatro la figura del travestì, ma 50 anni fa lui ha fatto cose strepitose. Vabbè, allora, ma sei d'accordo o no con lui o con quello che ha detto su Napoli? No. Io non ho sentito quello che ha detto su Napoli, ho leggiucchiato qualche cosa. Sì, sì. Ma vuole pensa che Edoardo De Filippo diceva a Napoli fu Hitler, scappata da Napoli. Quindi, però diceva che nel momento in cui si incazzava perché non gli davano il teatro giusto. Ma dunque è giusto, secondo te, scappare o no? No, per carità. Noi siamo i fuggitivi e sbagliamo, abbiamo sbagliato. Io ho avuto successo con il cinema che ho fatto a Napoli, l'ho avuto in tutto il mondo, in America i guatti li vanno a superare. No, ma ha ragione o no quando dice che vivere a Napoli è un inferno? Questo ha detto, no, in sostanza. No, no, no. E sulla provincia? E sulla provincia che viene? No, tu adesso ti spiego se c'hai un minuto. Dimmi. Noi avevamo a Napoli due poteri. Lo Stato, chiamiamolo così, questa parvenza di Stato ridicolo, è la camorra. Sì. Il vero potere, io sono nato alla sanità, e alla sanità comandava, mi senti? Sì, ti sento. Comandava Don Luigi Campolongo, naso e carne, il capo della camorra. E allora? La camorra che cosa ci chiedeva? Cosa? Il pizzo. Era contro la droga, era contro la prostituzione, era contro tutto quello che diffamava. C'erano delle regole tremende. Cioè, mi stai dicendo che era meglio quando comandava la camorra? No, io non sto dicendo che era meglio, ti sto dicendo com'era la situazione. Beh, no, mi stai dicendo che c'era più ordine. Certo, perché i piemontesi, i ciardini, quando sono venuti a fucilare i napoletani, hanno fatto l'accordo con la camorra. Io ci ho fatto da film su questo. Tutta la polizia napoletana erano ex camorristi. Beh, se oggi, scusa, se oggi ci fosse il dominio, peraltro c'è sotto altre vesti, ma insomma, se si tornasse a quell'epoca in cui la camorra era, sarebbe meglio? Certamente. Ma come certamente? Certamente sarebbe meglio, perché la camorra era un contropotere. Che bene o male andava d'accordo col potere, andava d'accordo col popolo. La camorra faceva una festa che adesso hanno tolto da anni. E invece oggi che c'è? Oggi c'è la delinquenza. Oggi ho capito. La criminalità. Beh, quella non è che è la diversa. Le periferie. Che è stata portata dalla provincia. Non è che quella camorra, scusa maestro, però non è che quella camorra che hai conosciuto tu, caro maestro, che ti rispetto, figuriamoci, grande cinema hai fatto, ma non è che quella camorra che hai conosciuto tu era migliore della camorra di oggi, solo perché c'era la droga e la camorra. Non ci sono più regole. No, lui dice che prima c'erano delle regole e adesso non ci sono regole. Non è la criminalità. Senti una cosa, ti voglio chiedere. Guarda, Davide. C'è un film famoso, Processo alla città. Sì. Come no? Però ti voglio chiedere, scusa perché dobbiamo poi chiudere, Pasquale, ti voglio chiedere una cosa, ma tu uno come Salvini lo voteresti? Sì. Che, sì, lo voteresti. Ti piace? Come sì. Ma non c'è secessionista, Salvini. Come? Un? Secessionista, come si dice? Sì, è un secessionista, sì. Cioè, non è più secessionista. Beh, insomma, sì, ma non è più secessionista, no, però. Mi pare. No, però cioè uno è un leader che voteresti tranquillamente. Sì, di quelli che vedo, sì. cioè l'unico, e il sud lo può seguire secondo te? Ma vedi, bisogna vedere quale sud, perché c'è un sud corto, forte, un sud che dovunque va nel mondo ti racconta la sua musica. Vabbè, ma gli elettori del sud adesso lo possono seguire secondo te? Dipende da lui. Lui sta trovando le parole giuste, dicendo io ho sbagliato con il Mezzogiorno, io ho sbagliato con il Sud, continua a dirlo, qui nessuno lo dice, che questo povero Sud, io ho visto in televisione 3 sera fa la cassa per il Mezzogiorno, ci hanno massacrato. Vabbè, ma voglio dire, un sacco di gente ci ha mangiato pure al Sud, cioè adesso non è che tutte le colpe sono degli altri. Io non dico che siamo innocenti, per carità di Dio, ma siamo stati colonizzati. Senti, un'ultima cosa, un'ultima cosa, Pasquale, 30 secondi, ma tu diresti di Virna Lisi che è una figa spettacolare? Ah, per carità, io dicevo prima la tua, io ho conosciuto Virna Lisi in una situazione tragica. Purtroppo, no, purtroppo magari proseguiamo dopo, perché la musichetta, il giornale radio. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Interessante considerazione di Feltri sulle intercettazioni, Parenzo, Senti, senti questa cosa qui. Importante è che non intercettino chi? Senti, senti. È vero tutto quello che ha detto Greta Mauro e soprattutto quello che dice internet. Guarda, l'importante per me è che non mi intercetti mia moglie, poi per il resto. Ma... sentito Feltri? No. Non hai sentito un cazzo. Perché sentivo questa era. No, no, no, sì, per carità, va tutto bene. Ti voglio avvertire che c'è qualcuno che ha messo gli occhi addosso a tua moglie, No. Alla tua compagna. Sì, sì, senti, senti Vittorio Sgarbi, oggi, questa mattina a Gorà, senti, senti. Senti, oh, ragazzi, mica me lo sono inventato io, È successo questa mattina da Gorà. Vabbè, intanto vedo Sgarbi scatenato in studio, sta parlando con Natalia Zeri, fatemelo vedere che succede. Allora, fatemi vedere Sgarbi, devo andare. Lo Sgarbi che sta parlando con Natalia. Vabbè, è l'unico posto buono che c'è. Vabbè, niente, vabbè, arrivo tra un attimo. Voglio parlare di 5 Stelle. Unico pezzo buono che c'è, così ha detto, l'unico, no, la definizione è interessante, ha detto, c'era, me l'avevano segnalato, non pensavo che lo mandassi, devo dire. Beh, ma come? Me lo avevano, ma me lo come avevano... non pensavi che lo mandassi, amico mio, avevano... mi conosci, no, poco, no, allora diciamo, no, ti conosco troppo bene, infatti. E allora, ma vabbè, ma è divertente, dai, non è mio. No, ma noi ci siamo sentiti 2 o 3 volte, ma no, ma me l'hanno detto tardi, infatti mi stupivo, non voglio svelare questo agli ascoltatori, mi stupivo che nelle 2 volte delle quali ci siamo sentiti oggi non mi avessi citato questo passaggio. No, me l'hanno detto, ma in realtà non c'è nulla di, cioè dice l'unico pezzo buono che c'è, ma è interessante la definizione, sì, di Sgarbi, sempre tu non molto. Conosci i fuori onda che io potrei anche raccontare. No, ma me racconterai però sicuramente. Non lo farò. È la cosa più interessante dello studio, dice Sgarbi, sì, per esempio. Così. Ecco. Sì, e sentiamo e mandiamo in onda con la signora Natania Zevi, protagonista, compagna di Parenzo e come dire, protagonista di Agora. Amico, mistero che tu vuoi nascondere, no? E non ci nascondiamo. No, allora, diciamo, signor Sgarbi, vengono tagliate le mani. Non so perché era però la lasciamo lì, Natania sta lì che deve lavorare. Di studio, avanti sui sedessi qua, forza, niente. Ma ogni volta è così. Hai fatto di ospite? Hai mandato via una decina, sì, di sì, ospite. Qui siamo già al decimo, abbiamo cominciato alle 5. Poi Ampassana ha detto anche che il nuovo centrodestra è una chiavica, una cloaca, signor Sgarbi. fatemi vedere per favore le intenzioni di voto sull'NCD. Però la cosa che invece a me sì, ci sono anche intenzioni di voto. Uno che vota è un minore. Voglio sapere Salvini, oh mamma mia, nuovo centrodestra sta al 2,1%. Non hanno neanche più il gruppo al Senato. C'erano più di le Rifondazioni Comuniste, protestano via. Rifondazione Comunista è un partito, NCD è una chiavica, un'immondezza, una cloaca. No, questo non si può dire, no, per la carità. No, allora, non si può dire, per favore, non c'è nessuno all'NCD qui, non fratelli di... Questo non si può dire, Greco, no, questo non si può dire, sgardi che dice ridendo, una chiavica, una cloaca, ha detto anche chi vota Nuovo Centrodestra è un minorato mentale, stupendo. Comunque è tutto finito, il Papa che fa gli auguri per la candidatura italiana ai Giochi Olimpici, il Papa, tu ti rendi conto? Ma perché ogni cosa che succede il Papa ci mette bocca? Cioè succede una cosa e arriva la telefonata del Papa, l'intervento del Papa, poi a un certo punto uno dice, sai com'è nel film di Totò, no? Quando uno chiama Dante Cruciani controllo, a un certo punto non si crede più né se è il vero Papa quello che chiama, esatto. Dice quello che dice, vabbè, insomma, alla fine è uguale, perché tanto interviene su qualsiasi argomento, signor Papa. Beh, sulla legge elettorale. Chiama Benigni, fa gli auguri per la candidatura ai Giochi Olimpici. Ormai è una specie di tutologo, cioè un partecipante ai talk show, specie di Prezzemolino. Ecco, diciamo così. Solo a noi non chiama. Non vi offendete, ma chiamerà anche noi. Alla fine chiamerà anche la Zanzara, chiamerà Radio DJ, chiamerà il signor Fabio Volo. Anzi, vorrei una telefonata del Papa a Fabio Volo. Me l'aspetto, sarebbe proprio stupenda. Telefonata del Papa a Fabio Volo per il suo nuovo libro. Sarebbe meraviglioso. Auguri anche per la candidatura di Roma ad ospitare i Giochi Olimpici del 2024. Io non ci sarò, Beh, adesso voglio dire, mancano 10 anni, magari uno può campare, no? Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Legge di stabilità attesa per il maxi emendamento, il governo lo stiamo limando, i sindacati rischio 20.000 esuberi nelle province, sul Jobs Act scontro con Poletti. Renzi, il nuovo presidente si è eletto con il più alto consenso, riflessione fra tutti i partiti senza polemiche e a testa bassa fino al 2018. Il leghista Salvini cerca di conquistare spazio al centro-sud, presentato il simbolo della lista, mai attaccato i meridionali, dice il nemico a Bruxelles. Nonostante le rassicurazioni di Putin, la crisi esplode in Russia, negozi presi d'assalto per paura che il rublo crolli e IKEA, Jaguar, Apple bloccano le vendite. Sentenza sulla discarica dei veleni Montedison in Abruzzo, assolti 19 imputati, i PM avevano chiesto fino a 12 anni, prescritto il disastro ambientale. Inchiesta Roma, sequestrati beni per 100 milioni all'imprenditore Guarnera, arresto confermato per Buzzi, torna in libertà Mancini, ex Ente Euro. Sciame sismico nel Chianti, più di 130 scosse, la più forte di magnitudo 4,1. Gente in strada, scuole evacuate, paura anche a Firenze, ma nessun danno. Napoli, buonasera Rocco. Giuseppe, buonasera. Senti, ti volevo dire che anche su Wikipedia tu sei scritto come contro i napoletani. Ma a me che me ne frega di quello che scrivono su Wikipedia. Ma fai proprio bene. Comunque volevo dire. No, io non faccio pena, fai tu pena al massimo. No, non ce l'ho. Anche così, a te stesso. Ma tu mi hai detto faccio pena. No, fanno. Volevo dire di non fregartene di che fanno pena quelli che ti chiamano dicendo di tutte queste stronzate. Purtroppo quello che diceva non l'ascoltatore, non so con chi parlavi. Vabbè, allora Rocco, vai al sodo, forza, che dimmi. Diceva che a Napoli era meglio la camorra prima. in un certo senso aveva ragione, perché oggi non c'è più la camorra di un tempo, diciamo, sì, no? Era meglio prima, perché oggi non c'è. Ma che meglio prima, regola. Ragazzi? È meglio, ma sempre meglio lo Stato, no? La camorra è sempre meglio la polizia, sì, i carabinieri. 100.000 volte. E allora di che parliamo? Dai, pure Squidieri ha detto una cazzata, dai, forza. Sì, è vero che sarà una cazzata, però adesso non c'è più rispetto di nulla. Ma ho capito, lo ma il rispetto è solo deve essere verso lo Stato, non deve essere verso il boss. Dai, su, di che parliamo? Il boss che controlla il territorio, ha detto una minchiata, dai. Nicola, sempre Napoli, ciao Rocco, Nicola. Buonasera. Ciao. Allora, tu Squittieri non lo devi invitare più, perché ti fa fare solo. No, io invito chi cazzo mi pare, innanzitutto. Perfettamente, ogni volta che lo chiami ti fa danni. Una volta ti fa fare il problema con la pedofilia, che parla della figlia di 12 anni. Ma lo dice che il boss è meglio dello Stato, ma il suo Squittieri è proprio scemo. Poi ha detto, esce dall'autostrada, scendi a piazza Carlo III, si elencava tutte le bellezze. A parte il fatto che arriva a Carlo III, è già sono saltati i braccetti, perché stanno tre buche che fanno paura. Uno porta al centro della terra. È sicuro. Seconda cosa, la stronzata che la gente non ha capito, lo dico da napoletano, senti il mio accento marcato. Ti come no? No, mi piace moltissimo l'accento napoletano, sì, moltissimo. Sento, però punzecchi pure un po' sull'accento. Ma io punzecchio su tutto. Ma fai bene, punzecchi, a chi vuoi tu, sei il capo lì, sei il boss assoluto. Bravo. Non è il problema che... Però Napoli... non ho il mitra, non minaccio nessuno. No, assolutamente. Però... No, questo è importante sottolinearlo, perché sai, quando uno parla di boss, io sono il boss in queste due ore e mezzo, amico mio. Bravo, poi non è bravo, che bravo. Non uso né il mitra, non ordino... Sì, ogni tanto minaccio Parenzo, ma minaccio amichevolmente, diciamo. No, non è che lo minaccio col mitra, non è che dico a qualcuno... Piccio. Non è che chiamo qualcuno e gli dico pezzo di merda, infame, lunido, ti spezzo le gambe, come hanno fatto oggi a me. Hai capito, Nicola? No, allora tu queste cose fai bene. Mi piaceva molto quella cosa che dicevi per la questura, e dicevi i nomi, le denunce che ti dicevano, le minacce e via dicendo. Certo, ma è stato fatto e verrà fatto puntualmente ogni volta. Tornando a Napoli, scusami, tornando a Napoli. Napoli è una città bellissima, se la guardi da un punto panoramico di però il problema di Napoli, lo dico da napoletano, è è che noi non abbiamo educazione civica. Allora, se tu mi fai Napoli dove le persone continuano a scendere con la macchina non essendoci posto, divieto di sosta, mettono le macchine due ruote sullo scivolo dei disabili, vanno a tre sul motorino senza assicurazione, se alzi la voce a qualcuno perché ti sta facendo una prepotenza, ti mette una pistola in faccia, e mi è capitato a me, c'è una causa penale in atto, ti mando via fax. Ma se ti va bene, tu grandi, piccole prepotenze, educazione proprio zero. Può succedere anche in altre città, per carità, però è vero che magari... Sì, sono grandi città, però noi siamo l'unica realtà medio orientale del mondo occidentale. Tu che ami tanto il modello occidentale, vedi che c'è una realtà medio orientale nel mondo occidentale e siamo noi. Ma che si incassassero pure i napoletani, però perché non si mettono a rigare dritto? Invece di dire, grazie Nicola, grazie, bello questo intervento. Ernesto, Roma, Ernesto. Buonasera Luciani. Ma Ernesto, dimmi che allora, c'è. Allora, a voi che siete due giornalisti da strapazzo e strapazzati, volevo dire che io non avrei mai pensato alla mia età di gioire perché Salvini ha presentato la lista per il Centro-Sud Italia. Cioè, tu sei pronto a votarlo? Ma sicuramente, a quattro mani, perché mi sono rotti i cocomeri, perché non è possibile, vi racconto due episodi veloci. Aspetta, raccontameli dopo. Ernesto da Roma, sono favorevole al partito di Salvini. Guarda che c'è un sacco di gente con cui ho parlato, al centro-sud, amici, eccetera, tutti pronti a votare Salvini, è una cosa pazzesca. Fa male solo a chi non sa ridere, e la zanzara. Ma cosa aspetti a dargli una vena sepoltura al gatto? Quel gatto che è in testa, che si è lontano un chilometro che è un gatto morto. Ah, porca puttana, ma si è lontano un chilometro che è un gatto che non ha non senso i capelli. Edward Luttwak, ieri sera scatenato. Mettersi un velo, era di fronte a una donna islamica, anno uno, programma anno uno. Non voglio parlare di anno uno, voglio parlare di Agorà. Oh, signora Zevi, buonasera, come sta? Buonasera. Adesso siamo tutti più calmi, siamo tutti più tranquilli, non diciamo parolacce. Allora, benissimo. Bravo, a modino ti voglio. Sì, a modino. Allora, che cosa è successo nel backstage col signor Sgarbi, che si è avvicinato predatorio, mi sembra, no? Molto predatorio, no? Vabbè, quello per forza, altrimenti sarebbe un insulto. Però nel backstage purtroppo non ho niente da dirti, non ho commenti da farti, perché non c'è stato un incontro al backstage. garage, visto che lo studio di Gerardo Greco è ghiacciato, dopo si corre a cambiarsi e quindi poi è sfuggito. Però ha detto quelle frasi il signor Sgarbi, ha detto l'unica cosa bella, l'unico pezzo bello. Ecco, come ti senti a essere definita l'unico pezzo bello? Così ha detto. Nego tutto. Ma come dici? C'è l'audio di Sgarbi. Hai l'unico pezzo buono. Bella di Agorà e Agorà e la sua squadra. Vabbè, adesso non devi venire. Non è che prendi il telefono a David per dire che Agorà è stupenda. Però voglio dire, l'unico pezzo buono che c'è, questo. Come ci sente essere definiti l'unico pezzo buono? Dimmi la verità, volevi dargli uno schiaffo? Io so come sei fatta, Natania. Volevi dargli uno schiaffo? Gli ho dati diversi prima. Quando si è seduto vicino a me, perché ha detto che preferiva sedersi vicino a me che in studio. Sì. Ma gli ho detto: Sgarbi, io sto qua per lavorare, mica per cazzeggiare come te. È quello che gli ho detto. E lui che continuava a dirti: ma chi sei tu? Tu non gli hai detto. Lo sa chi sono, perché già c'era stato un incontro all'estiva, ad Agora estate. Ma non ti ha fatto proposte oscene, no? Qualcuna, però più quest'estate. Oggi era un po' più sul rispettoso, ma sono venuto qui apposta, tutto falso. Ah, apposta per te è venuto? Ma cosa pazzesca. Ma se ci credi, Giuseppe, solo il tuo ego può credere una cosa così, io no. No, è vero, perché Sgarbi ci prova con tutti, bisogna dire la verità. E questo non te lo voglio dire per sminuirti, però Sgarbi ci prova veramente con tutti, te lo posso assicurare. Per cui vecchie, giovani, 18enni, 50enni, eccetera, eccetera. Vabbè, però la cosa più interessante è la nuova pettinatura, perché qui ci si è divisi sulla tua nuova pettinatura. A me, devo dire la verità, non piace la nuova pettinatura della signora Zeri. Non mi piace, sì, ti fa troppo così, un po' troppo. Già sei snob, più snob di quello che sei, capito? Un po' sì, dai, adesso non rifiutare. Sono meno annoiata di te. Però non dire. La parte tua è quella dell'annoiato, la mia è quella della snob. Vabbè, annoiato, adesso annoiato è un altro discorso. Tu sei annoiato sempre. Comunque, ti sei pentita di esserti tagliati i capelli in quel modo oppure no? Anzi, ti dico la verità, in video non mi piacciono, ma nella vita sì. Nella vita sì. Comunque Sgarbi non ti ha fatto proposto scene. Importante è quello, non ti ha fatto proposto scene, signor Sgarbi. Questo non te lo dirò mai. Tanto lo sappiamo che te l'ha fatta. Tanto no, dicendo questa cosa qui, stai sostanzialmente dicendo che ti ha fatto proposto scene. Vabbè, adesso Vittorio. Tra privati. Va bene, ciao, presto, ciao. Ciao, ciao, bacio. Ciao. La compagna di David Parenzo. Adesso non occorre farci i titoli proprio. Beh, l'hai passata. È stato un bel pezzo di radio, però devo dire la verità, hai avuto un colpo di genio. Piace un mondo così. Sì, a me piace molto. Sono gli ospiti che ci provano con le compagne dei giornalisti. E a me fa cagare un mondo così. Per scommetto che ti sei pure incazzato, non devi incazzarti con Sgarbi. C'è gente che mi chiama e mi dice: basta che adesso respiri. Cioè, Sgarbi. No, quello no. Sgarbi ci prova. No, Sgarbi ci prova, è l'ultima puntata dell'anno, d'accordo, però non trasformiamo tutto in casa Parenzo, c'è tempo per farlo, ma sì, mi piace moltissimo, però le cose vanno consumate nel tempo, non possiamo consumare tutto in una puntata. Allora, basta che respiri, questo mi ha detto una persona che conosce molto bene Sgarbi, ha detto: guarda che non si esaltasse troppo la signora Zevi, perché basta che respiri, questo possiamo chiudere questa parentesi. Ernesto, ci sei ancora, Ernesto? Familiari, sì, sono qua. Dimmi. Allora, volevo dire che io c'è quel comunista di Melma di Parenzo in ascolto? Ecco, ricominciamo, vedi Parenzo, non si può aprire un attimo. Perché soprattutto per lui, che difende i Rom, gli immigrati, Roma è diventata una fogna. Sta bene a casa sua lei? Tutto questi fuoco, Rom, questi immigrati che abbiamo visto sono serviti a fare un pacco di soldi a Carminati e la sua banda. Vabbè, ma questo che c'entra adesso? Scusa, che c'entra? Perché ti racconto che a me l'altra sera, l'altro pomeriggio, alla stazione, dopo aver pagato il parcheggio, me ne sono venuti incontro in quattro e io avevo solo 50 centesimi a moneta, gli ho dato 50 centesimi, mi hanno guardato con uno schifo, perché erano pochi 50 centesimi. Quando sono un pezzettone, 50 centesimi. Dice Parenzo altro, che sei un pezzente perché gli ha dato solo 50 centesimi. Parenzo, guarda, quello c'ha la testa per separare l'orecchio destro dall'orecchio sinistro, non capisce niente. E quindi gli dico che sai cosa ho trovato al ritorno dalla macchina? Che hai trovato? Una montagna di escrementi all'altezza della portiera di guida, che per entrare in macchina ho dovuto fare l'acrobata. Era alto almeno mezzo metro. Ma non è finita qua. non è finita qua. A Ponte Milvio, cioè, hanno cagato, hanno cagato davanti alla sua macchina, Ernesto, scusa. Sì, una montagna di escrescenze, l'hanno fatta in tre, credo. Ma chi? Ma chi? Quasi mezzo metro quella montagna. Tanto è vero, da là allo sportello di guida, per entrare in macchina ho dovuto fare acrobazia. E poi non è finita qui. La sera ho parcheggiato a Ponte Milvio, stava ancora intavolato per il pomeriggio alla stazione e non glielo ho voluto dare, non gli ho dato una lira. Sono tornato, ho trovato la borsa di guida abboccata perché l'avevano presa a calci. A sto punto non è una questione di razzismo, è una questione che si devono togliere dai cocomeri perché danno fastidio, non fanno un cazzo, fanno no, i ma non ho capito una cosa, scusi, romani, è interessante e danno fastidio, scusi. E poi prima o poi verranno a occupare anche le case. Scusi, ma che dobbiamo aspettare che ci prendono le mutande? Per cui benvenga Salvini, benvenga la Lega, no, non avrei mai pensato di votare Salvini io fino a qualche anno fa, ma oggi sono esasperato e come scusi me, però lei ultimo, è interessante romani, un dettaglio, il dettaglio della defecazione, no, giusto? Allora, che cosa è successo? Lei è sicuro di aver visto una montagna di merda davanti alla sua come macchina? Ma fatta dai rom? Ma guardi, è risaputa che fanno queste ripicche, questi atti di vendetta. Scusi un attimo, però secondo me lei metro non è possibile, secondo me lei ha fatto mezzo metro, no, secondo me lei soffre di questa malattia. Sarà stato un 30 centimetri, ma quale malattia? Siete aspetti, voi che non capite un tubo. Aspetti, Ernesto, secondo me lei no, ho capito, secondo me lei è malato di questa roba qui. Senta il rimedio che ci può essere. Senta. In realtà ci sono persone che vacano magari tre volte al giorno, ma che oggi consideriamo stiti, che uno dice ma come mai? Perché tutte queste volte fanno una grande fatica ad espellere piccole quantità di feci, semmai come delle palline che assomigliano a quelle delle caprette, per cui per loro è un sacrificio enorme. Quindi accanto alla riduzione della frequenza è molto anche l'importanza di avere un'evacuazione spontanea, facile e, termine un po' strano, soddisfacente, cioè sentirsi bene dopo essere andati di corpo. Ma semplicemente questi qua erano contenti di andare di corpo, punto. Me l'hanno fatto vicino alla mia macchina apposta perché gli ho dato solo 50 centesimi. È la sera che me l'hanno presa a calci. Ma chi era questo che ha scorreggiato mentalmente adesso? Era un professore che si occupa di stitichezza. È un professore di mail, ma allora. E quindi è una scoreggia quella che ha fatto. Va bene, ma ciao Ernesto. Ciao, buonasera. Ma lei va regolarmente in bagno? Lei va regolarmente? Soffre di stitichezza? Come no? Un orologio, due volte al giorno, mattina e pomeriggio. Se vuole venire a vedere la invito a cagare con me. Beh, potremmo fare una potremmo una fare generale. Potremmo fare un contest, Parenzo. Chi fa la cagata più lunga? No, una volta si faceva chi fa la pipì più lunga. Vabbè, abbassa la radio, va Luigi, provincia di Napoli. Ma due volte al giorno è pazzesco. Vabbè, due volte al giorno è normale, perché è pazzesco? Non è strano. Io vado qualche volta in un giorno, non vado neppure, devo dirti la verità. Luigi, no, ma provincia. Due volte questo sta male, ragazzi, te lo dico io. Luigi, vabbè, uno magari provoca l'evacuazione, no? No, non è normale. A te piace un mondo così? Ma no, ma un mondo così. Non è strano un mondo in cui uno va due volte al cesso, scusami. A te piace un mondo così? Ma che c'entra un mondo così? Ma non capito, non è che non mi piace un mondo così. Se uno va a cagare due volte durante il giorno, qual è il problema? Male, è un malato. Ma perché è malato? Non perché è malato. Ma no, si vuole liberare di un peso. Anch'io sarei contento di liberarmi ogni tanto di un peso. Dai, Luigi. Scusi, interpelliamo Luigi. Su Luigi dalla provincia di Napoli. Lei quante volte va al cesso? Io vado una volta e anche due volte. Però conosco gente che non ci va per una settimana intera. No, una settimana no. Dai, una settimana no. Questo è grave. Vabbè, questo non credo. Vabbè, questo è un problema serio da risolvere con medicinali, da risolvere con i medici. Lo so, però si stanno tranquilli, non dicono niente, va bene così. Però quando vanno in bagno poi è una tragedia. Vabbè, ma a parte questo. Vabbè, Luigi, io dimmi. L'ho chiamato semplicemente per il discorso di Salvini. Io abito nella terra dei fuochi, Giuliano. Sì. E mi vanto di essere napoletano perché vabbè, lei si vanta di essere napoletano, ma ma sa perché? A che pro? L'80% dei napoletani sono persone oneste, lei lo sa bene. Sì. Quel 20% che di delinquenti, gente maleducata, fa testo, chiaramente. E poi una cosa che posso dire di negativo sui meridionali, sui napoletani in particolar modo, che non hanno le palle, quello è sicuro. Sai perché non c'hanno le palle? Sì, ma io voglio capire se lei è d'accordo con Mastelloni, al di là dell'ascoltatore che è intervenuto, che ha detto che i napoletani vanno sotterrati, vanno distrutti, che sono peggio dei rom. In questo modo non esiste proprio. Mastelloni ha detto che vivere a Napoli è un percorso di guerra, che è tutta malfamata, eccetera, eccetera. È d'accordo, sì o no? L'ha detto col cuore in mano, perché piange per questa situazione drammatica, drammatica. Esatto, guardi, ma pure io, pure a me capitano delle cose durante la giornata che ma non posso generalizzare e definire e usare delle definizioni in questo modo. Cioè, le ripeto, io una cosa che critico dei napoletani è che non c'hanno palle, sa perché non c'hanno palle? No? Che vuol dire? Che vuol è dire? Storico, è storico, qui a Napoli sono arrivati spagnoli, francesi, abbiamo aperto sempre le gambe a tutti. E adesso c'è aperto le gambe a tutti. Ma che vuol dire? Il rischio di Salvini, ma Salvini è l'unico che vi può salvare, secondo me, magari ci fosse il Doge. Siamo stati conquistati da tutti. Cioè non abbiamo opposto resistenza. Ma Salvini si dovrebbe candidare adesso a sindaco di Napoli. Se si candidasse a sindaco di Napoli. Adesso Salvini, allora se i napoletani avessero le palle, a Salvini sa dove lo dovrebbero far correre. Dove? Cioè, a uno. Dove? Andiamo a Treviso, Renzo. Sì, state. Pronto? Sì, dimmi Renzo. Vai. Dico solo che sono stato a Napoli diverse volte, è un disastro, una disperazione. Oh, a parliamo proposito di Treviso, facciamo un applauso. Aspetti, c'è stata una grande novità a Treviso, perché un tribunale ha deciso che i gay conviventi sono famiglia. Applauso, Parenzo, applauso. Stupendo. Eccolo qui, applauso. È caduto un altro muro anche a Treviso, i gay conviventi sono famiglia. No, ma perché la città si è liberata della Lega, ora c'è un sindaco del PD, si respira un'aria. Ma no, quello non c'entra una mazza, scusami, non c'entra un cazzo, è il tribunale che ha deciso. Inizieranno a iscriversi nel registro. Ma è finito il feudo di Gentilini, è finito il feudo del Renzo, ha capito? No, non perché è della Lega, solo perché ha delle regole. Avrà delle cose sbagliate, però delle regole ben precise di come gestire una città. Vabbè, dai, allora è tutto allo sbando. Ci sono tutto allo sbando. Sono corrosso, immondizie dappertutto. Ma dove? Ma non dove? È colpa. Dove? Ma forse non sei andato nella periferia, io sono andato secondo i Ma dove? Ah, a Napoli, ho capito. A Napoli, ma anche fuori è un disastro. L'unica cosa che si salva è il Vomero. Tutto il resto è un disastro. Ci sono i sottopassi che non passi neanche, non riesci neanche a attraversare da quando immondizie c'è, perché la gente purtroppo non c'è l'educazione, non c'è il senso dello Stato e non c'è rispetto per l'ambiente. Ma non è solo la gente, è la camorra. Non è la camorra, ho visto gente in spiaggia, io gente in spiaggia che era andata a fare il picnic, non sulle spiagge a pagamento libere, e si è alzata, è stato tutta l'immondizia in spiaggia. Ma dai, ma dove si vive queste cose qua? Ciao caro. In collegamento da Pescara, Antonio Razzi, buonasera per l'ultima puntata dell'anno. Senatore, come stai? Buonasera a voi tutti e tutti i radioascoltatori. Come stai, bene, Antonio? Bene. Ma scusa, ma i tuoi colleghi sono lì? Buonasera. No, ma insomma, non buonasera, vabbè, che devo fare? Non lo sgridi, non lo richiami. Ma che c'entra? Tu sei il conduttore, tu sei il conduttore. La tua amichetta, il tuo amichetto. Non ma lo che amichetto? Sì, sono amico di Razzi. Allora, se sono amico di Razzi, l'amichetto che dice buonasera. No, l'amichetto, no, tu stai insinuando qualcosa. Gli amichetti sono quelli che poi finiscono a letto. Conosco gli amichetti. Razzi e so che lui è eterosessuale convinto, credo. Mi sembra di conoscerlo così. Oh no, Anto, sì, possiamo. Sì. Di che può dormire in sonno tranquillo. Insomma. Da quel punto di vista dormiamo sonni tranquillissimi. Bravo, cioè, prima di andare con un uomo, no? Che deve succedere? Questo non avverrà mai. Mi dispiace per te che hai visto? Ti piace. No, a me non mi piace. No, a Davide se gli piace, questo è i cazzi suoi. Io no. No. Non è che vi piace, io rispetto tutti, ci mancherebbe. Sì, no, certo. Ci mancherebbe. Ognuno fa quello che cavolo gli pare. Io a me mi piace difendere chi ama. Ti piace, scusa? Le femmine. Ah, beh, certo, ma ci mancherebbe. Facciamo questo gioco qui. Se tutti hanno un prezzo, se ti dicessero, non so, per 200.000 euro, no, ma sul problema del mutuo non ce l'hai più. Però se qualcuno ti dicesse, per 200.000 euro giaceresti una notte con un uomo? Per 200.000 euro, pensaci bene, Razzi. Tutto ha un prezzo, amico mio. No, assolutamente 300.000. No. Beh, 200.000 sono tanti, però, 200.000. Caro Davide, ti devo dare delusione, io no. 200.000 però sono tanti. 300. Ma proprio un davvero milione, niente, io sto a posto così. Però devo dire la verità, 300.000 io andrei forse, 300. Beh, 300. Giuseppe, se ci vuoi andare, vacci, ma io no. Sì, però 300.000 io me te l'ho detto un po' in abruzzese. No, ma dimmelo sempre in abruzzese, mi piace parlare in abruzzese. No, se, però se ci vuoi vacci, io ci vai. No, io non ci vado, d'accordo. Però bisogna dire la verità, Antò, io 300.000 forse ci vado. 300.000 ci va, 300.000 vado con un uomo, sì. Nessuno mai mi offrirà 300.000 per andare con un uomo. Però se mi dicessero per assurdo, come dice Parenzo, 300.000 euro ci vai con uno? Ma sì, ma che mi. Io no. Tu no, 300.000 una notte con uno non te la fai? Dai, su. No, non posso. Non ce la ma David, ma dai, non dire stupidaggini, dai, ti metti a posto, mutui, cose, separazioni, casini, dai. Ho capito, ma gli effetti sono devastanti, però. Ma che effetti devastanti? Vai, perché devastanti? Perché effetti devastanti? Guarda che sei veramente razzista, che vuol dire effetti? Perché non è il mio genere, ma il rispetto che ho fatto, come sai. Che mi dici? 300 milioni ci si può fare un pensiero. 300 milioni di euro, ho capito, 300 milioni di euro. 300 milioni di euro, no, vabbè, ho capito, ma 300 milioni... No, visto che non te lo dà nessuno, così non girai. Ah, vabbè, d'accordo, vabbè, ma che c'entra, dai. Questa la sì, la vabbè, sì, sì. Comunque, devo dire la verità, confesso, andrò a cena nei prossimi giorni col senatore Razzi. Se ti piace passare le vacanze di Natale così. Amico. No, vabbè, andiamo. Io vado a mangiare fra un'ora, sono a mangiare sagna e fagioli, sagna e ceci lì dal Melograno. Ah, al Melograno, andiamo. Lì, quello è stupendo. Andiamo martedì al Melograno a Miglianico, ragazzi, chi vuole venire? Chi vuole venire fuori? No, anzi no, chi vuole venire no, perché abbiamo riservato un tavolo. Comunque chi vuole là venire a fare un po' di casino. Fuori là, fuori, no, a mangiare fuori, eccetera. A farvi la festa, siamo lì al Melograno sotto a Miglianico. Esatto, Miglianico, provincia, che provincia è? Provincia di Chieti, facile, ristorante il Melograno, è facile, trovate su internet. Ci siamo però devi promettermi questo, Antonio, devi mettergli la quantità di peperoncino. No, questo è importante, devi fotografarla e poi twittarla. Per vedere se Cruciani è veramente un uomo, deve mangiare il peperoncino che ho mangiato io con te. Di la verità, quanto ne ho mangiato io? Guarda, io non ho mai visto un Paduan mangiare tanto peperoncino. Sì, però... Cruciani uguale, sì, però... è un uomo vero. Sì, sono rimasto... Devi fare come ho fatto io, mettere le mani nel peperoncino e poi boom. Ma è vero, Antonio, scusami, Antonio, sei un uomo. Ma è vero che il peperoncino è come il Viagra? Per noi è il Viagra abruzzese. Ma veramente? Là, quando ti mangi quella, amico mio, funziona tutto. Funziona tutto? Ti scalda tutto il corpo. Cioè tu dici che proprio te lo fa diventare... Minchia, dopo se c'è qualcuno te la... te la passi, cioè te la spassi. Vabbè, io quando ci vado con la moglie, così stengo calma. Calmo, perché con la moglie non fai niente, non ho capito, perché non fai niente, non ho capito con la moglie, poveraccia, no, adesso non la lasciare. No, sto tranquillo, tranquillo, perché con la moglie zero, sì, qualcosa farei. No, a me ci mancherebbe, è normale quello. No, è normale, però voglio dire, tu al posto del Viagra, invece di spendere 100 euro, usi... Mangi un peperoncino. Mangi il peperoncino. Un peperoncino. Allora, fra qualche istante, dopo la pubblicità, col senatore Antonio Razzi sveleremo tutto sulla sua partecipazione, che noi ovviamente che noi auspichiamo, anche se è complicato, eccetera. C'è stata un'apertura di Carlo Conti. Razzi a Sanremo e dintorni, a tra poco. Se ci vuoi vacci, io ci vai. Faccio, non ho mai pentito, sono stato eletto senatore, anche perché di fame si muore. Poi Crozza mi ha imitato e ora sono anche famoso. Caro amico, te lo dico da amico. Andiamo insieme, Antonio! Tira cabba e fammi sognare. Chiedo solo il rimborso spese per arrivare alla fine del mese. A me canta Parenza, anche tu. Tira cabba. Tira cabba. Ma cos'è ghiacciante? Ti svalori pure. Allora, com'è la situazione? Antò, questa è una canzone, diciamo la verità, Parenzo, che ne dica Parenzo, eccetera, godibilissima, diciamolo tutto. Non l'ha scritta Mogol. No, è anche una canzone anche un po' umoristico, dove allegra. Esatto, umoristica non c'è dubbio. Un po' spiritoso, vogliamo dire, non è che stiamo sempre lì a piangere per tutte esatto, le cose. Esatto, c'è un po' di allegria. Ma l'hai sentito Carlo Conti? La Paola Palma che l'ha fatto, sì. ha ripreso tutte le battute che Crozza ha fatto. Vabbè, questo lo sappiamo. Senti un attimo, Antonio, ma hai sentito per caso Carlo Conti al telefono? No? No, io se chiama, ma prima di tutto deve chiamare la Paola Palma. No, vabbè, d'accordo. Però il punto fondamentale è questo. Tu il duetto con Crozza lo faresti sul palco di Sanremo? Sì, ovviamente. Ma perché no? Vabbè, no, io la mia quota, se è una quota, io lo do in beneficenza. Io non è che vado lì perché vuoi soldi, certo. Io non voglio ma nemmeno un centesimo, ci mancherebbe. Allora, però diciamo una cosa a Carlo Conti, con te fai un appello. Con te e Crozza sul palco, che succede? Diciamola tutta. Sarà un boom che mai sicuramente supererà tutte le lo share che c'è in tutte le televisioni. Cioè, se vuoi fare il botto, no, se fare vuoi fare il botto. Anche a Giancarlo Leone, che è il direttore di Rai 1, lo conosci Leone, no? Giancarlo Leone. Ma che ne sa? Ma io conosco solo lì al Senato, io solo penso solo al lavoro e cose. Direttore di Rai 1. Scusa, ma a proposito di Senato, non dovresti stare là a lavorare al Senato? C'è gente che sta votando il coso là. Che no, dici? C'è la fiducia sulla finanziaria. Siccome non accetto quella finanziaria, è inutile che sto là. Te ne sei andato. Me ne sono andato perché quello è un disastro. E io i disastri. Ma che vuol dire? Ma scusa, perché non sei stato lì a votare come tutti? Me ne accorgete. Vabbè, ti sei preso il pullman, che te frega tanto? No, io ho studiato il pullman e me ne sono venuto a pescare. E gli altri stanno lì al Senato, vabbè. No, ma perché lì ci devono stare quelli che le vogliono votare. Io non ho. Vabbè, ma anche quelli che non la votano, scusa, sennò altrimenti. Qualcuno ci sta, ma. Sennò altrimenti sarebbe solo quelli della maggioranza che votano, scusa. Lo so, ma c'è la maggioranza. Sì, tanto la votano, è sicuro. Siccome io avevo fatto alcuni emendamenti. E non sono passati? Quando riguarda al porto di Pescara e non sono passati? E chiedevo un milione e non sono passati perché siccome sei all'opposizione non ti fanno passare niente, allora dico, come si dice? Cantatevela e suonatela voi, io me ne torno a casa. Ma non è un buon motivo, però. Senti una cosa, io non lo credo. Torniamo a Sanremo. Diciamola tutta, sta cosa di Sanremo. Allora, hai veramente speranza di andare lì sul palco Crozza? Che dici? Ma io ce la metto tutto. Dopo, tutta. È il mio italiano. Va bene così che c'è. Ma anche qualcuno, magari ieri sera, hanno detto, ma tu piglia tutti questi soldi. Guarda, io non piglio un cavolo di niente. Comunque con noi fai il botto. Conti, caro Carlo Conti, con noi fai il botto di scena. Con noi sicuramente, perché a parte che più di Benigni fai, più di Benigni. Ma sicuramente. Più di Benigni, certo. E risparmia come sicuramente. Risparmia pure perché non devi manco mettere i soldi del cachet, capito? Fa bella figura. Chi? Fa bella figura sia gli organizzatori di Sanremo. Sì. E perché non caccia una lira, capito? Non caccia una lira. Anche dopo, se c'è stato qualcuno che ha criticato, ma io lo lascio parlare perché tanto non sanno la mia storia. Ma potresti anche sul palco di Sanremo anche leggere i 10 comandamenti come Benigni, potresti fare anche questo, no? Ma perché no? Beh, il settimo specialmente. Cioè quale? Non rubare. Ha detto bene Benigni. Quello il signore l'ha fatto in italiano. Io non ho capito una cosa. Hai visto, tornando invece a un argomento che ci è molto caro, la Corea del Nord, no? Ma hai visto? Questi volevano distribuire un film dove si offendeva Kim Jong-un. Che io non ho trovato giusto che si facesse quello. Meno male, mi sembra che l'hanno un po' adesso bloccato. Ah, meno male, è giusto bloccare questo film. Ma come si fa a fare? Ma quella è una provocazione. È una provocazione. Cioè, un film in cui quello muore, capito? Adesso avete visto come Cuba adesso, diciamo, se sì, ha pacificato con l'America, e mi sembra giusto. E che questo piano piano mi sicuramente si riuscirà sì, anche lì con la Corea del Nord, col dialogo, non con le bombe. Però piano, scusami, Anto, ma allora è giusto che questi film satira, questi film che, in cui viene preso in giro, cioè non si può permettere una cosa del genere, no? No, assolutamente. Finché che uno, ma se uno non c'è più, allora posso pure capire. Di solito quando si fa questi film. Ma cose, è satira! Ma satira un cazzo, satira un cazzo, satira un cazzo. Era un'offesa, tu dici la Sony offendeva, la Sony offendeva il coso. Dai, è una cosa offensiva, perciò come la stessa cosa, io faccio un film, che modo devo vedere che cosa scrive il produttore Carlo Vabbè, Maietta, insomma, no? Sì, sì. Vedere cosa, perché mi sembra che vuole fare uno, due o tre parti. Episodi, sì. Però non è che si può offendere, dici, qualcuno, no, nei film. Ma io la stessa cosa, io non farei mai un film per offendere qualcuno. Per cui è stato giusto ritirare questi film? Ma sicuramente, è stato giustissimo, anzi, più che giusto. Ma scusa, ma perché non vai a risolvere pure questa situazione con la Corea? Ma questo piano piano, diciamo, ci stiamo lavorando, almeno io ci sto lavorando per aprire. E io l'altra sera sono stato sia sì, alla Corea del Nord, sì, sono 17, all'ambasciata, e sia all'ambasciata della Corea del Sud. Io sono amico di tutte e due, ci mancherebbe altro. Sì. Per me il sogno è quello nel cassetto, sì, è quello di far veramente riappacificare. Ma hai visto che il tuo amico Scilipoti ha querelato Vespa? Lui è. Ma questo non credo. No, ha querelato Vespa, no, perché, sì, sì, perché nel libro di Vespa c'è scritto che voleva dare, Berlusconi voleva dare, avrebbe dato 1 milione di euro, non so perché cosa, no, ha querelato. Ma guarda, io... Tu non querelesti mai? No, io non querelo. Ma qui si siamo tutti sempre querele. Io cerco sempre di non farlo. Però se me lo fanno a me, guarda, me lo fanno anche a me molte volte, allora cerco... Dovresti querelare tutta Italia, tu. Ah, no, guarda, dovrei querelare tutta Italia anche su quello che mi scrivono, su quello che anche offensive, ci mancherebbe. Certo, io certo, capisco molte volte che la gente, anche non ha, chi non ha lavoro, che quando sente, come ieri sera ho detto 12.000 euro, non è così, perché ci sta da pagare la quota al partito, perché ci sta da pagare i due collaboratori. Sì. E lo deve prendere tutto su quella somma lì. Alla fine ti devi stare attento che non ci vai manca a mangiare sagni e fagioli. Capito? Cioè tu dici che alla fine, con i soldi da parlamentare non si diventa ricchi, sta dicendo. No, io almeno io... A te non ti rimane niente? Alla fine guarda, a me non mi rimane niente. Io non posso aiutare né me né i miei figli. Io c'ho e sono contento. Cioè non riesci a dare un euro manco ai tuoi figli con i soldi da parlamentare? Sono due operai, uno lavora in Svizzera e uno lavora in Spagna. E si fanno la loro si fanno un mazzo così. Si fanno un mazzo così con i soldi loro. Però adesso c'è una svolta. Niente. Vogliamo dare questo annuncio che alla fine del mese c'è la svolta, cioè finisce il mutuo. Finito il mutuo. Finito l'incubo. Meno male. Oh, diamo. È contento pure Parenzo. Diamo questo annuncio. Alla fine dell'anno finisce il mutuo. Ecco, meno male. E dunque, adesso scusa. Almeno speriamo che posso dormire tranquillo. No, vabbè, questo dormirà. No, perché io quando ho i debiti non riesco a dormire. Allora, perciò. Ma cazzo, 4.000 in più al mese che entra, no, amico mio. Magari ci possiamo permettere una cena in più se c'è. Beh, adesso una cena in più, 4.000 euro, una cena in più. 4.000 euro, che cazzo, un po' più di una cena in più, Anto, un po' più di una cena in più. Vabbè, diciamo, ma sicuramente ci sarà altre spese. Ci saranno altre spese, cioè manco te fai bastarsi 4.000 euro in più. Sicuramente arriverà altre spese. Comunque, il 31 di dicembre finisce il mutuo della casa da pagare, la casa diventa tutta tua, giusto? No, la casa, l'appartamento. L'appartamento, vabbè, la casa, l'appartamento, come lo vuoi chiamare? L'appartamento, come lo vuoi chiamare? L'appartamento, finalmente, dice, abbiamo risolto. Abbiamo risolto un problema, 4.000 che entrano. Che lo pago, l'ho pagato io e nessuno me l'ha dato. No, vabbè. Sì, diciamo, grazie anche al fatto che sei senatore. Grazie senza al fatto che sono stato rieletto, se no mi attaccava a tram. Certo, senza se non eri rieletto era un casino, era un casino. Berlusconi eri morto, Senza Berlusconi eri finito, diciamo la verità. Dobbiamo dire la verità, meno male che mi ha ricandidato, ma mi ha candidato numero 4, non è che mi ha messo... No, ma gliel'hai fatto un regalo per Natale a Berlusconi? Gli ho portato il vino. Montepulciano e... Quello con la faccia tua, scusa. Quello con la faccia mia. Ma scusa, Berlusconi che cazzo ci fa? Ma che regalo è? È rimasto contentissimo, gli ho portato il pecorino e dico, te lo dico da amico, bevi pecorino d'Abruzzo. E poi? Che gli hai portato? Regalata, ma ho capito, ma Berlusconi non lo mangia il pecorino? Monte Pulciano d'Abruzzo. Ma perché non gli hai, ma scusa, ma perché non gli hai fatto un regalo serio? Ma insomma, quello t'ha salvato, t'ha ricandidato. Il vino che ti ha regalato. Ma fagli un regalo serio, scusa, mi andò, e c'è il braccino corto. Io gli ho portato questo vino da provare. E lui? E lui è rimasto contentissimo, dice. Vabbè, che domani. E sei un genio, ogni tanto vedi riesci con tante cose, vedi, fai la pubblicità al tuo Abruzzo, meno male, è chiaro. No, ma scusa, letto in Abruzzo. Certo, scusa una cosa, ma a parte che io sono convinto che ti dovresti candidare prima o poi in Abruzzo come governatore dell'Abruzzo, a parte questo che è la mia convinzione, te lo dico da amico, questo succederà. Però a proposito, grazie per la tua fiducia e soprattutto grazie per la fiducia di Parenzo. Parenzo, veramente non ha detto niente. Sembra incredibile, se riesce, no, sarebbe strabiliante. Allora, Salvini, però, no, ero curiosa questa cosa qua. Berlusconi resta sempre il tuo capo, no? Su questo non c'è dubbio. Sì, quello non c'è dubbio. Quello non c'è dubbio nessuno. Allora, Salvini, però. Però insomma, si candida Salvini. Ecco, no, ma Salvini, perché non diventi capolista in Abruzzo del partito di Noi con Salvini che si presenta in Centro Italia? Questo è interessante come cosa. No. Io sono solo di Berlusconi. Sei solo di Berlusconi. Salvini, l'amico Matteo. Appunto, sei stato in Corea con lui. Cioè, sei pro. No, ma se siamo in Corea. Sei stato testimone ieri, della nascita del nuovo leader. Sei stato testimone. Ma sì, questo è. Ma vi sentite ogni tanto per telefono o no? No, quando ci vediamo, ci parliamo, ci mancherebbe. Anche ci siamo visti in trasmissione televisiva, ci mancherebbe. Un gran comunicatore, un grande amico, ci mancherebbe. L'amicizia a parte, il partito è un'altra cosa. Certo, vabbè. Il partito solo con Forza Italia. Sei con Forza Italia. Il presidente si chiama Silvio Berlusconi. Berlusconi. Solo con lui e basta. E basta. E non c'è Trippo Peggatti. Non c'è tipo, adesso c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, vabbè, questo vedremo come andrà a finire l'elezione del Presidente della Repubblica. Ma io spero che appunto ci mette un moderato una volta tanto. Moderato chi? Moderato? Moderato un cazzo. Me lo so, un liberale, almeno uno che... Vabbè, senti, tanto ti devo lasciare, tanto ci vediamo la settimana prossima. Ma tutta sta roba, ve l'abbiamo già detto, mafia capitale, tanto in Corea questo qua non sarebbe successo, ma in Corea questi qua, in Corea sicuro, le mani gli tagliavano. Quello sicuro, il settimo comandamento veniva rispettato. Perché? In Corea lo rispetto il settimo comandamento. Ho capito, però ti impiccano. Non rubano sicuro, ecco. Cioè, mafia capitale non potrebbe succedere in Corea. No, assolutamente. Scusami, volevo capire cosa fa Razzi? Sarebbe interessante seguirlo con delle telecamere. Razzi a Natale, la cena ma di Natale. Ma sta i ragazzi suoi con la sua famiglia, scusa, che deve fare? Cioè, sono solo con mia moglie. Solo con tua moglie? Solo con mia moglie, perché tutti gli anni siamo andati a Saragozza, che c'è la... a casa sua, sì, a casa sua. A casa di Mirko e mia nipote Daniela. Sì, sì. E perché non vai anche tu? È perché non sapeva ancora con questo problema, si vota o non si vota, quando c'è le vacanze. Dico basta, dico, non ce la faccio più, me ne sto a pescare. Basta, oggi sei scappato, basta stare in Parlamento, una rottura di coglioni. Guarda, la scorsa settimana sono stato in Svizzera a trovare l'altro nipote, certo. Giuliano e Giona dell'altro figlio. Comunque diglielo affitto, te lo dico da amico, non dire di no a Berlusconi, perché quel ma però devo dire che Fitto gli vuole bene a Berlusconi, dici? Questo non credo, questo no. Comunque guarda, l'ultima cosa, Antonio, questo non credo. Ci dobbiamo fare un giro di prostituzione, cioè vedere com'è la situazione della prostituzione lì in Abruzzo. Ma lì dobbiamo aprire le case, inutile che si chiama. Oh, questo è interessante, perché non fai la proposta per l'Abruzzo? Apriamo le case chiuse in Abruzzo. Si deve levare tutta questa robaccia per le strade, bisogna fare le cose serie. Allora diciamolo agli amici abruzzesi, apriamo qualche bordello a Pescara, a Chieti. Ma sì, ma ce lo vuole, perché. Ma dove lo faresti il bordello a Pescara? Dove lo faresti? Ma ce ne stanno tante parti, tanti locali che si può fare in tutto il lungomare. Bordello sul lungomare? No, quello ci stanno i ragazzini, no, quello non si può fare. No, lì no. Quartiere a luci rosse, da levare tutte quelle che sono sul lungomare. Le donne. Da levare lì e mettere all'interno belle case chiuse, tranquille, che nessuno vede, nessuno sente. Case chiuse in Abruzzo, dai, su, addio al governatore d'Abruzzo. Sì, glielo devo dire all'amico all'amico Luciano. Vabbè, D'Alfonso, ciao, a presto, ciao, ciao. Senta, ragazzi, pubblicità. No, un momento, prima di cose devo fare i saluti a tutti quanti voi. Vai, fai jingle bell, jingle bell, jingle bell. Buon Natale a tutti e un buon anno. Va bene, no. Ma a tutti i radioascoltatori. Ci risentiamo. Dandara, buon Natale e buon anno 2015. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. E lei morirà con questo sogno, invece creperà in trasmissione col suo collega stronzo come lei. Morirà sul lavoro, morirà sul lavoro. Allora, nei giorni scorsi abbiamo chiamato la sorella di Buzzi, che è dirigente del Ministero dei Beni Culturali in Italia. Bravo. È successa una cosa un po' bizzarra. Avevamo il numero di cellulare, lei è dirigente al Ministero della Cultura, le volevamo chiedere non tanto della sua carriera ai beni culturali, quanto piuttosto della raccomandazione che, secondo alcune intercettazioni, sarebbe stata fatta dal fratello, adesso in carcere, dove resterà anche per le vacanze, alla figlia della sorella, cioè alla nipote, la figlia della sorella, che sarebbe stata, secondo alcune intercettazioni, raccomandata per entrare al comune di Roma. Oggi scrive una lettera al giornale la sorella di Buzzi dicendo di non avere mai avuto contatti con mio fratello. La cosa strana è che a noi ha detto di non essere la sorella. Cioè, ha detto: non sono la sorella di Buzzi. Eppure era lei, perché il numero coincide. Pronto? Dottoressa Buzzi? Sì? Buonasera, mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24. La disturbo? Mi dica. Senta, no, volevo sapere, siccome lei è la sorella di Buzzi, stanno dipingendo suo fratello in questi giorni come un mostro, no? Ma io non sono la sorella di Buzzi. Chi parla? Del Buzzi famoso alle cronache? Eh beh sì, no, non è lei? No. Ah, lei non è la sorella? No. Anna Maria Buzzi, dirigente dei beni culturali, no? No, guardi, non sono io, mi dispiace. Non è lei? No, ma noi abbiamo avuto questo cellulare, siamo abbastanza sicuri, no? Evidentemente c'è un numero che non coincide. Io sono Anna Maria Buzzi, però, sono dei beni culturali, ma non sono sorella. Lei è dei beni culturali? Non sono sorella di questo Buzzi. Nemmeno parente, no? No. Vabbè. Chi è, scusi? Cruciani, Radio 24. Ah. No, lei non è la sorella, ma è strano, Anna Maria Buzzi è la sorella di Buzzi, quello noto alle cronache. No. Niente, vabbè. Va bene? Va bene. Buonasera. Lei non ha una figlia che si chiama... Com'è che si chiama sua figlia? Grazie, buonasera. Ha una figlia, lei? Mi scusi, adesso stavo in una riunione, la devo salutare. Grazie. Ok, grazie. Arrivederci. Questa è la storia di un'intervista abortita. Però c'è la voce della sorella di Buzzi. E devo dire che ce l'ha intortata bene, non c'è dubbio, perché a me rimane il dubbio, ma chi la sorella, chi quello noto alle cronache? Beh, brava, bravissima. Grande attrice. Tele Durruti, amico mio, come stai, Fulvio? Caro Giuseppe, sto bene, posso fare, che ne so, il cognato, i Buzzi, tu dimmi un grado di parentela. E io, perché ho appena sentito la conversazione con la presunta sorella di Buzzi, ed è stato un pezzo di teatro italiano straordinario. Beh, una che nega, io la sorella, no, ma chi è quello noto alle cronache? Noto alle cronache è buono. La caduta è avvenuta quando ha detto: lei ha una figlia. A quel punto non poteva andare oltre il copione, insomma. Senti, caro Fulvio, io ho un candidato alla presidenza della Repubblica, no, caro Fulvio. Un candidato. Il mio è Valentina Nappi. No, quale Valentina Nappi? Il candidato deve essere l'Apple Khan. Non come l'Apple Khan? L'unico comico italiano al momento sulla breccia, l'unico vero comico. Però scusami, l'Apple Khan adesso ha anche dei problemi, come sai, è stato sottoposto a mezzo ricatto, anche se poi il ricattatore ha fatto marcia indietro. Però devo dire la verità, che anche l'Apple Khan sul Quirinale allora, non sarebbe male. Io ti dico che qualche anno fa con Situazionismo e Libertà, il mio movimento, sì, ero anche riuscito a far avere un voto a Drupi. È stato votato. Ah, Drupi, sei stato tu a convincere qualcuno a mettere Drupi nella... Esattamente, però quest'anno Drupi credo che non abbia grandi speranze. E secondo me è una candidatura veramente, diciamo, italiana, insomma, patriottica dovrebbe essere quella di L'Apple Khan. Tu mi dirai non ha l'età, ma che ce frega? Ma sì. Perché quello che c'è adesso c'ha anche l'età per fare ancora il presidente della Repubblica. Dici, al contrario, non ha l'età, non ha l'età, è troppo grande, cioè troppo anziano. Io credo che il problema di Lapo sia l'età, caro Fulvio, non credo sia solo quello. No, però io sono bisogna avere un colpo altro che personaggio istituzionale, bisogna dare un colpo d'ala. Per me Valentina Nappi è perfetta. Valentina Nappi ha altro da fare, insomma, è più interessata ad altro genere di sport che non... Beh, sì, ma vai tranquillo, qui non sentirti legato, fai come se fosse a Teledurruti, non c'è problema. No. Per esempio, quando ti sei espresso sui grillini in quel modo così gentile, in quel modo... ti dico per quale motivo, questo è un paese di analfabeti. Poc'anzi ascoltavo il vostro Lorazzi, che sì, è straordinario ed è convincente, ha successo, perché è una tipica maschera italiana, come certo, il cognato che se beve il whisky nel grottino con l'altro cognato sotto Natale scureggiano. Ecco, quel teatro italiano lì, piccolo borghese. E devo dire che queste figure diciamo dell'antico teatro, che non è mai riuscito ad andare oltre la piccola borghesia, perché una borghesia vera l'Italia, sì, non l'ha mai avuta. Guarda l'Apo, che dovrebbe essere, diciamo, il precipitato ultimo di un'alta borghesia. Detto ciò, ti dico sinceramente che i grillini, io l'altro giorno sono stato invitato a un dibattito sulle scie chimiche con Tommaso Curro. Ma veramente stai dicendo? Esattamente, poco prima che Curro uscisse. E sono andato lì e ho detto, io sono qui perché vorrei infilare delle copie del giornale dei misteri in culo a uno di questi. Del giornale? Come si chiama? Il giornale dei misteri, era un giornale del cazzo che negli anni 70 esiste ancora. Ti raccontava, si è detto senza offesa, insomma, del cazzo, ti raccontava gli UFO, il corpo astrale e tutte queste stronzate che fanno parte del teatro della piccola borghesia, che oltre a bere whisky e scureggiare col cognato, poi a un certo punto scoprono le teorie dei complotti. Mamma mia. E in questi giorni io devo dire che non ricevo così tanti insulti. Ah, bene, immagino. Dopo aver fatto quel filmato dove dicevo appunto che ci hanno rotto veramente, ma sai perché ci hanno rotto? Perché hai la misura di un paese di analfabeti. Cioè, secondo te i grillini sono analfabeti, alla fine sono analfabeti. C'è una componente di analfabetismo proprio spaventosa. Però aspetta che c'è un signore da Urbino che mi vuole, che è in onda da un sacco di tempo, Samuele. Sì. Che cos'è sta storia dei peli pubblici? Scusa, Samuele. Pronto. Dimmi, Samuele, dimmi, che c'è? Pronto, Maremma. Ma io l'ho realizzato, alla faccia che siamo analfabeti, come dice il tuo ospite, ho realizzato una collana da 33 anelli, come 33 tanti fili della Divina Commedia di Dante Alighieri, mio concittadino che è fiorentino, quindi sono importante anch'io, è di materiale pilifero pubblico femminile. Oh, ci ho messo 2 anni, 8 mesi e 6 giorni, cioè. Ma ti rendi conto? Allora, ha ragione Abate da questo punto di vista. Se tu hai realizzato una collana con peli pubblici, 33 anelli di peli di fica, 11 italiani, 11 europei extra italici e 11 ma esiste America, sul serio questa collana? Esiste sicuramente. No, mandamela. Ma dove te la mando però? Me la devo dire. Monterosa 91. 20149, allora, Milano. Sì. Allora, 25. Fulvio, dai la benedizione a Samuele oppure digli che è un coglione. No, per niente. A parte che gli artisti della pop art, della body art hanno lavorato anche su questo, insomma, hanno raccolto peli di cazzo, peli di fica, peli di culo. Poi c'è anche una famosissima, purtroppo io non sono napoletano, una famosissima poesia in napoletano in cui ci si interroga su un pelo, concludendo che ha capito, può stare solo se no pile e culo. Purtroppo non sono in grado. Ma tu di che banda sei? Sei della banda di quelli che preferiscono, come dire, no? Il pelo oppure la rasatura? Allora, diciamo subito che il Brasile da un certo momento in poi ha vinto sul resto, diciamo, del mondo del gusto. Io credo che il pelo, diciamo, generazionalmente sono più dalla affezionato parte del pelo che non della deforestazione, sinceramente. E con questo direi che possiamo... Però perdona, sì, Giuseppe, chi si era fatto eliminare il pelo anche con l'ago elettrico, sì, adesso sta in ambasce, perché è tornata la moda bulgara. La moda bulgara sai qual è? No, È un folto vello nella fica che fuoriesce perfino dagli slip, insomma. Ah, addirittura? Beh, sì. La moda bulgara. Sì, le bulgare erano famose per questo. La cosa che a me stupisce tutte siamo le volte... sempre alle 20:30. Sì, esatto. La cosa che mi stupisce tutte le volte è che, ad esempio, anche questo ottimo artista che ha chiamato poco fa sì, non si è sentito, come dire, in dovere di telefonare anche dal signor Milan la mattina, per intenderci. Oppure tu dirai, da Parigi soli non ci sono le telefonate. E su questo siamo tutti quanti d'accordo. Ma, ad esempio, questo produttore di collane con peli pubici, sì, addirittura mediterraneo, mediterranea, ecco, anche. Non si è sentito di esporre la sua geniale arte in un altro contenitore del mio amico Salvatore Carruba, ad esempio, già forma di collezionismo, sono trofei, dai. Assolutamente, caro Fulvio, ti abbraccio, vieni più spesso. Anch'io. Ciao, pubblicità. Buon Natale. Ciao, pubblicità, per carità, mi hai detto buon Natale, ti voglio strozzare. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. Allora, siamo agli ultimi 10 minuti dell'anno della Zanzara, ovviamente, eh? E poi ci rivediamo nel 2015. Sì, ma non lo dire in questo modo così drammatico. Il 5 gennaio. Ma non fa impressione. Il 5 gennaio, non me ne frega niente. Il 5 gennaio. 2015. Vabbè, ho capito. Cioè, ci vediamo nel 2015. Vabbè, ma non è così strano. Passa un anno, siamo nel 2014, siamo nel 2015. Cosa c'è 2015, di strano? 2015, incredibile. 2015, no? Allora, innanzitutto voglio farvi sentire, prima di uno speciale Zanzarology, antologia della Zanzara, voglio farvi sentire, rimanete lì, che poi prendiamo le ultime telefonate. Lo sbrocco di Don Mazzi. Su Bertone, sul lattico di Bertone. Ah, classe, sì, attirà lo schiaffo lì dal signor. Senti, sì, classe. Vabbè, dai, via. Non è possibile, torno di nuovo con quella litigata che ho fatto con il cardinale Bertone. Ma com'è possibile che un cardinale abbia il coraggio di fottersi di tutti, di farci un appartamento di 700 metri quadrati, di pagarselo per chi ha detto che lui se l'è pagato con i soldi suoi? Come con i soldi suoi, dico? Ma per pagarsi un appartamento in Vaticano di 700 metri quadrati ci vogliono non migliori. Credo che ci vogliano 1000 euro. Poi uno si domanda perché pure i francescani sono finiti in rosso, no? Cioè, è evidente che pure nella Chiesa ci sono un sacco di cose che non funzionano. Se uno come il cardinal Bertone c'ha un attico spaventoso, sprechi, cose, pure nei francescani ci sono stati problemi di bilancio. I francescani in rosso per alcuni investimenti sbagliati, alberghi, gente che forse si è magnata i soldi, pure nei francescani. Ancora Don Mazzi. Allora il povero Francesco deve riuscire a mandare quelli lì, va bene, in Africa, in Asia, va bene, che patiscano la fame e dormono per terra, e al posto della carta igienica devono adoperare qualche foglia. Se la Chiesa non diventa povera, la Chiesa non può essere la Chiesa di Cristo. Però Francesco le piace? Mi piace Francesco, ma ha cominciato, appena cominciato. Problema vero è che non si può accettare una ricchezza così schifosa in Vaticano. Zanzarology. Zanzarologi. Zanzarologi. Antologia della zanzara. Oh, abbiamo scelto la top 5 dell'anno del 2014, eh? La top 5 dell'anno. Iniziamo da un nuovo personaggio che abbiamo citato prima, Valentina Nappi. Lo scegliamo come quinta perché è un nuovo straordinario personaggio, non solo della zanzara, ma della mia nuova stella polare, la nuova stella polare di moltissimi ascoltatori della zanzara. Almeno tutte le donne dovrebbero provare che cos'è di Pio, che cos'è una gangbang. La donna può scopare per ore e ore e ore di fila, basta cambiare il partner. Ti fai male quando caghi, non ti fai male quando caghi, ti piace quando caghi. È la stessa cosa quando entra. Bisognerebbe arrivare a far sesso con la stessa facilità con cui si prenderebbe un caffè con un amico. Puoi prenderti un caffè? No, ni, ma sì, prendiamolo lo stesso. Beh, questo era un sunto del Nappi pensiero, caro, io la voglio premier. No, Presidente della Repubblica non si può perché non ha 50 anni, però premier sì, premier. Sai sì. Che alcuni passaggi li avevo dimenticati, alcuni li avevo. Questo era la number 5 di Zanzarologi. Zanzarologi. Zanzarologi. Antologia della zanzara. Al numero 4, Carlo Taormina. Carlo Taormina con un finto Luciano Moggi. Innanzitutto ho sentito dire prima che non è cambiato niente da Moggi Agnelli. Avete detto questo e poi si parla di ladrocinio. Io sono stufo di sentire queste cose. Io ho lasciato i miei progetti. No, Taormina, adesso mi ascolti. La storia del caso lei mi ascolti. Lei mi ascolti perché adesso sono io che sono stufo. E non dobbiamo mettere la testa sotto. Lei mi lasci parlare. Perché questo. No, sotto la sabbia. Lei mi lasci parlare. Pensi piuttosto. Nel momento in cui io vedo tre arbitri che stanno Bruciali, lei mi dispiace. Lei pensi piuttosto a difendere i suoi clienti, Taormina. Che la Roma è indifendibile, lasci perdere Moggi, lasci perdere Cacciopoli e lasci perdere la Juventus. Io faccio quello che cazzo mi pare, scusi. Ecco, Moggi. Allora se cosa facciamo? Non li prendo da sai solo. Cosa avvocato. Facciamo? Ci vediamo in tribunale, ci vediamo in tribunale. Una persona che è stata protagonista di questa storia, adesso gliela dico in faccia perché è una cosa intollerabile che lei possa venire a fare il moralista con me, quindi non mi rompa i coglioni. Ovviamente non era un vero Moggi. Number 3, al numero 3. Lo scherzo dell'anno, forse lo scherzo direi più importante della radiofonia italiana, adesso mi esalto un po', lo scherzo no, può essere. Vendola Barca, è lo scherzo più importante dal punto di vista politico, è un piccolo estratto. Fabrizio, ehi, come stai? Ma non bene, perché sono colpito dall'insistenza del segno della loro confusione, disperazione, sono fuori di testa. Sì, è fantapolitica, Fabrizio, è così. Fantapolitica. Ma Matteo ti ha detto qualcosa in particolare? No, lui no. No, tutto questo attraverso terzi, quarti, quinti, un imprenditore. In effetti sono sbigottito. Il problema è un altro. Ma tra 30 giorni, quando si capisce che non c'è niente, il paese va di testa. Numero 2 della top 5 di Zanzarologi, antologia della zanzara, il meglio del 2014, Fede che sbrocca. Perché lo chiamano? Io ve lo ripeto ancora una volta, lo chiamano cittadini comuni, gente che lo vuole insultare e noi raccogliamo tutto. Sono pronto? Pronto, direttore, come andiamo? Tutto bene? Sì, ma dai, sono... Tutto bene? Sì, benissimo. Sì, senti, finalmente ti hanno cacciato. Come si sta? Bene? Si sta benissimo. Sai perché? Rimango fra di noi. Alla grande, Adesso mi piglio tua moglie, la porto fuori a fare i pompini e guadagno. Cornuto di merda. Sempre tu? No, direttore, io sono uno molto povero. E me dispiace molto, ma tu oggi sei più povero di me. Anche casetta di Milano 2 è andata in fumo. Via, tu hai bisogno di alloggio con me? Io posso aiutare te. Per favore, io posso venire. Se tu hai una moglie o delle figlie troie che fanno i pompini, no? Sicuro, no? Ma io sono single, single e non ho figli. Sugra, va di bucra, gran figlio di puttana, arabo di merda. Ogni volta non ce la faccio. Certo che questi che lo chiamano poi proprio, no? Beh, devo dire che al numero uno ho messo, sì, questi che lo chiamano sono proprio degli stronzi. Al numero uno ho messo Gianni Vattimo, che il 15 luglio in una memorabile puntata della Zanzara disse che Israele stava perpetrando nei confronti dei palestinesi un genocidio razzista e nazista peggio di Hitler. Questo è un genocidio in atto, sì. Nazista, razzista, colonialista, imperialista, sì. E qui ci vuole una resistenza. Allora, l'unica cosa seria da fare in questo momento sarebbe fare le brigate internazionali, ma naturalmente purtroppo siamo quattro gatti, perché tutta l'informazione italiana, sì, piange sul fatto che pioggia di missili su Israele, Hamas. Quanti morti hanno fatto? Nessuno. Ma perché sono bravi, ma hanno fatto due, ma perché sono bravi un corno, perché i poveri non hanno armi effettivamente, perché sono dei miserabili. Zanzarologi, Zanzarologi, antologia della zanzara. Ragazzi, chiudiamo con le telefonate, va? Parenzo, ci sei? Sì, ultima volata. Io pensavo, dai, ci fosse una divinazione, qualcosa, no? No, purtroppo non c'è. Vabbè, non c'è. Che dobbiamo fare? Speravo in un vaticinio di qualche altro matto che Andrea Pisa. Va bene. Pronto? Vai, Andrea, vai. Beh, e questo è un regalo per Parenzo, perché effettivamente è un po' troppo bistrattato in tutto quest'anno e queste persone non si meritano il 118, non risolve. Certo. Allora io gliela canterei una piccola strofa a certa gente. Perché lì ci vuole lo sciacquone, lo sai cos'è lo sciacquone? Sì, ma lo sappiamo. L'ho inventato io, amico mio. Abbiamo inventato noi lo sciacquone in diretta, dai, su, amico mio. No, lo sciacquone, sì, è quella quantità di acqua che viene giù tirando la catenella, no? Allora, in sostanza la strofetta è così fatta. Specchiati nel water, lasciati andare giù, aiuta lo sciacquone. Bye bye, glu glu glu glu. Questo si è fatto veramente, no l'eroina, si è fatto. Non era male, però. Si è fatto, ce la provava un po'. Si è fatto di tutto, no l'eroina, cioè si è fatto l'eroina, il crack. Che ti sei fatto, Andrea? Scusami, la puoi ripetere la canzoncina, scusami. Specchiati nel water, lasciati andare giù, t'aiuta lo sciacquone. Bye bye, glu glu glu glu. Vabbè, Andrea. Non è male, ma quando ci hai pensato? Non credo. Quando ci hai pensato? Ci ho pensato perché poi ha questa voce così tranquilla. Sì, questa è tranquilla, sì, tranquilla appunto per questo, perché si è fatto di qualsiasi cosa. Qualche collega me l'ha ispirata, perché ci sono persone invidiose, persone che sì, che magari un po' vigliacche, perché magari ti possono fare la pernacchia dietro, no? Sì, magari sì, ti possono fare qualche scherzo, però la vigliaccheria. Ma tu lo ami Parenzo alla fine? Beh, no, non esageriamo. Non però esageriamo. Diciamo che hai un'attrazione, però, perché inventarti una canzoncina che parla di uno stronzo che vuol dire che va giù, no? Alla fine, sì. Beh, in qualche attrazione ci deve essere, non c'è solo odio, dai. No, non c'è, no, non può essere così estremista, non puoi passare da un limite all'altro. Diciamo però che è intelligente, però, che qual è il suo difetto? L'intelligenza contro l'ignoranza, la cattiveria, la stronzata. Vabbè, Andrea Prato, ciao Andrea, ciao. Un altro Andrea Prato. Grazie, ciao. Vai, veloce Andrea, su. Senti, volevo fermare un po' Parenzo, no? Nel senso che secondo me, cioè, chi crea il razzismo proprio sono le persone come Parenzo. Perché? Perché se mi difendi gli immigrati solo perché sono immigrati, delinquano. È lì che crea il razzismo. Io, guarda, ti dico la verità, una volta ero molto multiculturale. Non ho mai difeso i delinquenti io. Insomma, dai Parenzo, delle volte mai difeso i delinquenti. Cose, e poi dici cioè che va bene tutto. I delinquenti non li ho mai difesi, ti devi sciacquare le orecchie la mattina. Sentiamo Maurizio da Pescara, non ha mai difesi i delinquenti, però certamente sei buonista con i rom, con gli immigrati, eccetera, eccetera. Non è che sei buonista. Luciano da Roma. In regola, ma che in regola? La sicurezza è innanzitutto metterli in galera quando delinquono. Luciano questo da Roma. Eccomi, pronto? Vai, dimmi. Buonasera Cruciani. Cioè, un giudice oggi ha assolto un padre di etnia rom a Bergamo. L'ho letto. Perché aveva lasciato la bambina di 7 anni. Esatto, aveva abbandonato la bambina in strada. Il padre è stato assolto con questa motivazione: è rom, è abituata. Sì, sì. Capito? Beh, certo. Cioè, non si può. Come, certo? Certo, un cazzo. Mi pare una motivazione saggia, diciamo. Saggia. Una motivazione saggia. Dal punto di vista della cultura rom, effettivamente una bambina di 7 anni viene. Ma se i giudici italiani non riescono a punire l'abbandono di una figlia dicendo che è abituata ad essere abbandonata. La sentenza devi leggerla tutta, perché quello che ho letto io almeno, perché mi interessava, immaginavo, infatti speravo. Cioè, i bambini sono abituati a queste situazioni. I bambini, ha detto un giudice, sono abituati a queste situazioni. Cioè, certificano innanzitutto per primo che i rom abbandonano ogni tanto i figli per strada e li lasciano allo sbaraglio. E secondo che non si possono nemmeno punire per questo. Questa è la giustizia d'Italia. Questa è l'Italia. Luciano da Roma, per concludere, dai, 10 secondi. Su, mi dispiace, Luciano, che non abbia affrontato questa roba qua. Guarda. Io infatti mi ero preparato. Ti eri preparato un cazzo. Dai, Luciano, dai. Mi ero preparato perché vorrei fare battaglia su questa roba. Vai. No, io ho sentito prima Razzi, il telefono per lui. Io sono di un paesino vicino Pescara, sì. E volevo dire solo, se sente Razzi la prossima volta, gli ricordi che lui è di Giuliano Teatino. Vabbè, ho capito, certo, però abita a Pescara, lo so benissimo che è di Giuliano Teatino, e qual è il problema? La prossima volta lo dicesse. Ma chi se ne frega, non è che dobbiamo fare la pubblicità a Giuliano Teatino, Luciano, su. Perché lui è veramente una persona che è venuta dal popolo, dal basso. Vabbè, ciao Luciano, ciao, dal bobolo, ciao. Ci sentiamo forse il 5 gennaio. Ciao. Specchiati nel water, lasciati andare giù, t'aiuta lo sciacquone. Bye bye, glu glu glu glu. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Radio 24. La passione si sente.